test attitudinale di quest'oggi si parlava di Led Zeppelin e del loro essere notoriamente restii a concedere brani per colonne sonore dei film. Jack Black riuscì qualche anno fa a farsi dare Immigrant Song per il suo School of Rock, ma sapevate dirci come fece? Forse, come dicemmo nell'ipotesi 1, dando un assegno di $10,000 sonanti agli Zeppelin? Ahimè, mi dispiace. Se avete scelto questa prima risposta, avete sbagliato. Per fortuna, se no erano dei taccagni gli Zeppelin, se li convincevi solo con sì, i soldi. Sì, avrebbero fatto una gran brutta figura, la figura del braccino corto. Ed era giusta forse l'ipotesi numero 2, ovvero una richiesta filmata da parte di Jack Black con 1000 fan urlanti implorando gli Zeppelin di avere il permesso? Beh, ci siamo. Qua è giusta o sbagliata? Ci siamo, è giusta. Due punti. Ebbene sì. Due punti. Colpo di scena, andata proprio così. E non solo, ah, e sì? Non solo, bisogna aggiungere, mi lasci, ma prego, la prego, la mi preghi. Lasci aggiungere questa appendice, che la richiesta venne accolta e il filmato di Jack Black con i 1000 fan urlanti è incluso nel DVD. Quindi abbiamo fatto anche pubblicità al DVD di School of Rock e sappiamo anche che allora la famosa partita di poker con carte truccate tra Jack Black e Robert Plant è un'invenzione della nostra redazione. Certo, un'invenzione anche brillante, nel senso che comunque come fai a sfidare uno che si chiama Jack Black a poker? Vince sempre lui, no? Uno che si chiama Jack Black, un nome, un destino, vincerà sempre lui a poker. Dunque, amici, se avete sbagliato male, sì. Se avete azzeccato bene. Bene, benissimo, ma ne abbiamo imparate tante oggi. Sì. Per ottenere la patente da autentico rocker, seguite il test attitudinale, seguite i corsi e rispondete al test attitudinale di pane, burro e rock and roll. Bravi! Continuate così. Running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs. she's the seat back. Che gli ha fate, è venerdì, l'ultimo sport, poi ci si tuffa nel weekend, ultima mezz'ora di diretta inaugurata con Panama Van Allen. Intravedo via sms che molti hanno azzeccato la risposta di quest'oggi. Era abbastanza semplice il test di oggi, dai, diciamo la verità. Però bravi, complimenti. Cumulate i vostri santi punticini per la patente da vero rocker. Qualche saluto anche via mail ad Andrea, a due Andrea. Il primo che ci bacchetta segnala che Keith Moon nel film Tommy interpretò il ruolo dello zio pedofilo Ernie, non il cugino Kevin. Hai ragione. Spargiamo il capo di cenere e passiamo a salutare Andrea Sacco, redivivo nella nostra casella di posta elettronica. E strombazzata anche per Isabella da Como, questa è nuova Isabella, ma è apprezzatissima. Lei è una delle tantissime, delle centinaia di persone che ci ha inviato una cartolina postale, ce l'ha inviata da Leire, e manda anche una mail di spiegazione della sua cartolina, quindi chiede gentilmente, quando arriveremo a leggere la sua, di aggiungere anche le note scritte nella mail, inaugurando così un saluto via mail e via cartolina postale, una sorta di gemellaggio tra il futuro e il passato che, cara Isabella, sia io che il buon Fricantoni abbiamo apprezzato parecchio. Grazie mille per la segnalazione, cercheremo di farlo. Cesare da Milano invece ha sbagliato il test attitudinale, ammissione di colpa da parte sua. Scrive: però la terza risposta faceva molto rock, quindi l'ho scelta anche se sapevo di sbagliare. Bravo! Ma sai che facendo così te li meriti lo stesso i punti per la patente da vero rocker? Perché non è detto che il vero rocker debba azzeccare la risposta, anzi, a volte è proprio sbagliandola che dimostra di essere un vero rocker. Vabbè, oh, che ci volete fare? Fortuna che c'è la buona musica a tenerci compagnia. Si chiamavano Queen, dai poverini, si chiamano ancora Queen. E questa è Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Every case, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. Like a baroness, middleman in China, went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, she's a that way. Perfume came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Drive you on. She's right against you. tu, vero rocker? Senti il peso delle responsabilità? La vita ti attanaglia? E quella cotta che tua figlia si è presa per il Finlay proprio non la sopporti? Bisogno di una scarica da 9.000 volte. All'Eleonora Duse troverai pace, relax e quel pizzico di comprensione che ti manca. Ehi, ciao ragazzi, sono Roberto Fricantoni e devo dirvi che anch'io, quando sento di dover ricaricare un po' le pile, vado all'Eleonora Duse. All'Eleonora Duse troverai esperienza, discrezione e competenza. Ecco qua amici, io ero Roberto Fricantoni e sono diventato Mike Bongiorno. Un saluto a tutti e venite sul cerchietto, altrimenti vi tiro le orecchie. Grazie a un'equipe di professionisti formatisi alla prestigiosa Eva Braun Schul di Rostock, potrai finalmente ritrovare l'oasi che c'è nel tuo deserto. Aia! No, no, ragazzi, va bene. No, non sono il vero Mike. Stavo giocando. Ah, no, sono Freak, buongiorno. Mettiamo... No, no, mi fate male così. Va bene, non sono il vero Mike. Però tutti qua sul cerchietto, all'Eleonora Duse, ci si diverte. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your colors and study your pain. Because your lover's still summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, I'm no hero, that's understood. Or a kitchen I can offer girls beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except run out the window and let the wind blow back your hair. Well, the night's busted open, these two legs will take our stand. Tra i vari sfizi che questa trasmissione radiofonica si toglie, c'è la possibilità di scoprire insieme al maestro Roberto Friccantoni cosa volevano dirci. Intanto buona giornata, caro Roberto, bentornato su Pane, Burro e Rock and Roll. Bentrovati, ma quale sfizi, caro DJ Ariel? Queste sono le basi che ogni rocker deve conoscere. Il vano tentativo di alzare gli ascolti radiofonici proponendo chilate di cultura, dico bene? Badilate di cultura. Oggi torniamo a parlare di pietre rotolanti, se non vedo male, Rolling Stone. Sì, effettivamente sì. Avrei preparato la traduzione di un classico. Devo dire che sono stato coadiuvato dalla redazione di Pane, Burro e Rock and Roll in questa traduzione di Sympathy for the Devil. Ovviamente la redazione l'ha aiutata a tradurre, ma è l'interpretazione quello che conta, e in questo nessuno può darle man forte se non lei stesso. Si regga sui suoi piedi, maestro, e la prego, ci interpreti come solo lei sa fare il brano che ha scelto per quest'oggi, Sympathy for the Devil. La simpatia per il diavolo. Ai. Argomento scabroso. Naturalmente, amici in ascolto, sappiate che l'adesione satanista è quasi sempre estetica. Non approfondite in maniera seriosa questo tema, perché spesso sono convinzioni puramente, come dire, estetiche. Mi aiuti, DJ Ariel, come seguite si può dire? Seguite il consiglio del maestro Roberto Friccantoni e il capretto riportatelo subito all'agricoltore al quale l'avevate rubato. Riportatelo all'ovile, all'ovile. Non è necessario consumare un rito satanista, assolutamente no. Nel rock conta soprattutto la musica. E allora una lettura estetica dell'esoterismo dei Rolling Stone, delle pietre rotolanti, in diretta a Pane, Burro e Rock and Roll. Il maestro Roberto Friccantoni legge i Rolling Stone. Prego, maestro. Vi prego, permettetemi di presentarmi. Sono un uomo ricco e di gusto. Sono stato via per molti, molti anni ed ho rubato l'anima e la fede di tanti uomini. C'ero anch'io quando Gesù Cristo ebbe il suo momento di dubbio e di dolore e resi certa la sua condanna da parte di Ponzio Pilato, lavai le sue mani, firmai il suo destino. Piacere di conoscervi, spero che indoviniate il mio nome, ma ciò che vi sconcerta, non negatelo, è la natura del mio gioco. Ho urlato che ha ucciso i Kennedy, quando dopo tutto, ricordi, eravamo solo tu ed io. Dunque, qual è il mio nome? Dimmi, dolcezza, qual è il mio nome? Dimmi, amore, te lo dico una volta sola. Il mio nome è Lucifero. Il giusto applauso del pubblico presente in sala. Mi perdoni, maestro, ma il mio nome è Lucifero. Se l'hai inventato di sana pianta o è nel testo originale? Chiamatemi è nel solo testo Lucifero. Originale. Mi perdoni. La svista. Che testo? Che testo tosto, interessante. Tosto, un testo tosto, tosto. Un testo tosto, sì. Tosto, sì, sì. Tosto. Beh, prosegue sempre con altre citazioni, naturalmente, parla di altre cose, parla dei Romanov, dice: io sono il responsabile della distruzione degli zar di Russia, e alla ci sono faccia tante altre immagini, ma ripeto, sono citazioni storiche e sono visioni, sono passione sentimentale che i Rolling Stones riescono a riportare così bene nei loro testi. Maestro Friccantoni, grazie per la sua interpretazione di un testo tosto. È stato un piacere raro. Jesus Christ had his moment of doubt and pain. washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and its ministers and its stage. Screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stayed. Grida il buon Mick Jagger. 8 e 56 minuti primi, Sympathy for the Devil, magistralmente interpretata nella traduzione dal maestro Roberto Fricantoni. Pochi minuti ancora a nostra disposizione per congedarci in questo venerdì 7 di settembre. Un po' di appuntamenti per il weekend. Questa sera vi troverete in compagnia di Max De Rieu, tornato guarito, speriamo, all'ippodromo a Firenze per il nostro DJ set, mentre domani sera mi troverete all'Atomic Bar qui a Milano, sempre per un DJ set di stramaledettissimo rock and roll. Grazie per averci iscritto in tanti anche quest'oggi, spargete la voce. Pane, burro e rock and roll è tornato, non solo nella diretta dalle 7 alle 9, ma anche su www.radiorockfm.com, dove potrete riascoltare tra qualche minuto tutta la puntata andata in onda quest'oggi, nello specifico la quinta puntata della ripresa della nostra trasmissione. Tra gli appuntamenti invece segnati per domani, 8 di settembre, ieri segnalavamo i V-Day organizzati da Beppe Grillo in giro per tutte le piazze italiane. Vi ricordo che in piazza Bologna si esibiranno gli Schiantos con un concerto particolare nel quale è stato chiesto agli amici Schiantos di rispolverare brani del loro vecchio repertorio, quindi se siete da quelle parti potrebbe essere un buon modo per festeggiare il suddetto V-Day. E a questo proposito ringrazio l'amica Antonella che mi gira via mail addirittura la canzone ufficiale del V-Day. Non ho tempo per programmarvela tutta, però un accenno potrei farlo così per sottolineare l'appuntamento di domani. È l'artista Leopari ad interpretarla. Questa è la sigla del V-Day di Beppe Grillo. Italiani, è arrivato l'8 settembre, il giorno della disfatta nostra. Questo 8 settembre sarà il giorno della disfatta loro. Di lei come vaffanculo del settembre, la festa della Madonna, una festa della Madonna, manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, ma in pista ma non decolla, le mani in pasta invischiate come dentro la colla. Questa è l'ennesima balla, ma ormai non state più a galla, qui con la piccola barca perché lo scappa una palla. Ormai non c'è più un rimedio, serve un pacifico assedio, questo è un invito, alzate tutti il dito medio. Onorevole, onorevole, questo è disonorevole, onorevole, onorevole, è davvero disdicevole. Al V-Day, ci sei o non ci sei, questa è la nuova evoluzione, è la rivoluzione. Auguriamo il meglio all'artista indipendente Leopari, che allora sigla questa canzone dedicata al V-Day. Un saluto a tutti coloro che vorranno partecipare all'evento. Intanto termina ufficialmente il minutaggio a mia disposizione. Ecco, sì, questa è la fine. Miei cari amici, è veramente finita. Si risente lunedì, andiamo di sigla, Spadino, che è meglio, vai. Pane, burro e rock and roll torna lunedì dalle 7 del mattino in rigorosa diretta a farvi cominciare al meglio la giornata. Pane, burro e rock and roll. Si risente se volete su rockfm.com. La colazione rock. La colazione che dà assuefazione. Pane, burro e rock and roll. Dai che è fatta, è venerdì, le ultime ore di lavoro, dai. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene, perché fa bene, perché c'è l'Ariele, Spadino, Frick Antoni, e perché dopo pane, burro e rock and roll comincia la mattina con Marco Garavelli. Buona giornata, caro. Buona giornata e buon weekend a te, perché ormai hai finito. Finito è un parolone grosso, però... Buone serate, ecco, lo so. Sì, esatto, sarà dura, ma terremo duro. Bravo. Fino alla fine, ci si risente lunedì, Marco. Yes. Intanto ti lascio i radioascoltatori, mi raccomando. Ti ringrazio, trattameli male. Te li tengo benissimo. No, trattali male, tanto è venerdì. Vabbè, dai, ma sempre così. Vuoi trattarli bene? Sì, dai. E allora trattali bene. Grazie, vai. A lunedì prossimo, ciao.